Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti all'ascolto di una nuova puntata. Vi ricordo il nostro sito radio24.it, all'interno del quale potrete scaricare in assoluta tranquillità le puntate di qualunque trasmissione nel momento in cui lo volete. Potete anche abbonarvi, interloquire con i conduttori, soprattutto ovviamente quelli che hanno un blog. Voi sapete che io ne ho uno, si chiama Guardie o Ladri, lo trovate o accedendo da Radio 24 sotto il mio profilo oppure nell'home page del Sole 24 Ore, lo trovate nello spazio che si chiama Agorà. Sapete che sono un inviato del Sole 24 Ore, quindi il mio spazio è anche lì sull'home page del Sole. L'ultima informazione di servizio che voglio darvi è quella relativa alla nostra mail, che è unabusoalgiorno@radio24.it. Sapete che non amo parlare di casi personali, di tanto in tanto qualcuno comunque lo prendo in considerazione, perché sono talmente tanti che è giusto anche di tanto in tanto affrontare anche casi personali, però in realtà voi sapete che devono essere generali come i problemi che possono sorgere tra clienti e compagnie, società, imprese radio televisive di comunicazione, telecomunicazione, che forniscono e propongono servizi. In questo caso parliamo di un rapporto un po' complesso che è sorto tra un radioascoltatore di Napoli, Pier Giovanni Navarro, e Mediaset Premium, motivo per il quale io ho chiamato a interloquire con noi Pier Giovanni Navarro di Napoli. Buongiorno Navarro. Buongiorno a tutti. E Marco Leonardi, che è il direttore dei contenuti di Mediaset Premium. Buongiorno Leonardi. Buongiorno a tutti. Allora, Navarro, partiamo da quello che è stato ed è ancora, credo, il problema che lei ha avuto con Mediaset Premium, che è nelle case di centinaia di migliaia di italiani. Adesso non so il numero esatto, magari poi lo chiediamo a Leonardi. E quindi devo dire che oltretutto il servizio che rende è di altissima qualità, perché di contenuti ce ne sono e ce ne sono moltissimi. Allora Navarro, prego. Allora, praticamente io non sono un cliente Mediaset Premium, comunque a novembre mi sono giunte due lettere da Premium Mediaset, appunto, con le quali mi comunicavano l'attivazione di due tessere con la formula EasyPay. Contestualmente c'erano anche già le fatture praticamente di questi due tessere, per le due tessere. Il problema è che queste fatture sono state recapitate anche a dicembre, quindi diciamo per il mese successivo. Ecco, io direi di partire da un presupposto senza il quale non si capirebbe perché lei ce l'ha così tanto con questa incomprensione, anzi perché si è messa in moto anche per scriverci. Cioè lei non ha mai firmato un contratto con Mediaset Premium? No, assolutamente. Oh, ecco, perché altrimenti uno dice, vabbè, firmo il contratto come fanno milioni di italiani e quindi ricevo i servizi. Ma lei non ha firmato contratti con Mediaset Premium? No, non ho mai firmato un contratto e invece mi sono trovato queste proposte di contratto con tutti i miei dati personali già inseriti, ma la cosa che mi ha colpito molto, appunto, che c'erano già la fatturazione e non avendo pagato naturalmente, in seguito mi è arrivato anche un sollecito di pagamento per i due contratti che non avevo. Ecco, quindi lei in buona sostanza non se le vede ad esempio le partite del Napoli? No. Ecco, perfetto. Non sono un tifoso accanito. Oh, non è un tifoso accanito. Io invece le partite della Roma, devo dire, su Mediaset Premium me le vedo e me le vedo tutte, tifando per il mio idolo Francesco Totti. Leonardi, allora, com'è la questione? Ma la questione, dunque, noi ci siamo attivati immediatamente dopo aver ricevuto la vostra segnalazione. Il giorno successivo abbiamo chiamato il signor Navarro e abbiamo scoperto di fatto di essere stati entrambi vittima di una truffa. Ah. Ovvero sia, effettivamente sono stati attivati due contratti contratti a nome del signor Navarro con tutti i dati del signor Navarro stesso, quindi di fatto stiamo parlando di furto d'identità. Dalle prime verifiche da noi effettuati i dati erano corretti, perché noi controlliamo immediatamente la correttezza del codice fiscale, salvo poi successivamente scoprire che ovviamente i pagamenti non venivano onorati dal signor Navarro. Poi, ecco, mi scusi Leonardi, ma lei ha detto una cosa abbastanza grave, e purtroppo ci siamo abituati. Una truffa, ma una truffa ideata e portata avanti ed effettuata da chi? Da ignoti. Ah. Perché noi abbiamo comunque erogato il servizio a ignoti, che a questo punto si sono viste, immagino, le partite del Napoli in tutto questo periodo, che si sono presentati a noi con nome, cognome e tutti i dati personali del signor Navarro. Ho capito, ovviamente quindi noi hanno usufruito, diciamo così, del servizio, lasciando poi che fosse il pollo, vale a dire, lo dico con rispetto ovviamente soltanto per dire che era una persona che era all'oscuro di tutto, lasciando che poi fosse il pollo a pagare per i servizi resi ad altri. Fortunatamente no, nel senso che il signor Navarro non ha pagato perché i dati, diciamo, le coordinate bancarie non erano le sue, quindi non erano corrette. Quindi ho capito. Nessuno ha pagato per questo servizio che noi abbiamo erogato. Ho capito. Per questo dicevo che siamo stati truffati entrambi. Ecco, ma a questo punto ritorno un secondo da Navarro. Navarro, quindi lei adesso ha risolto i suoi problemi con Mediaset Premium o ha qualcosa da dire a Leonardi? Ma io in effetti lo potrò verificare se non mi arrivano altre fatture. Certo. Perché non ho altro contatto. Certo, non ha altro modo di verificare. Allora, ovviamente Leonardi che ci sta, che sta prestando, come dire, il suo tempo con noi, ovviamente non potrà non tenerne conto, e quindi non dovrebbe arrivarle assolutamente nuova fatturazione, altrimenti ce lo faccia sapere, ma sono sicuro che Leonardi si attiverà. Però questo avvenimento mi fa venire in mente una domanda abbastanza scontata e banale, Leonardi, ma può dirci allora come è possibile capire se ci troviamo di fronte a delle truffe? Questo è sicuramente un allarme, no? Il fatto che arrivi una fatturazione per tessere mai richieste è certamente un campanello d'allarme, ma vi siete imbattuti in altri casi magari diversi, ma che sempre truffe sono, e quindi sono truffe tanto per voi quanto per chi le riceve, oltre che perdite di tempo enorme per entrambi? Allora, fortunatamente i casi sono pochi e isolati, comunque ce ne sono stati anche altri. La cosa che noi abbiamo fatto è ovviamente implementare dei sistemi antifrode più efficaci, ovvero sia adesso controlliamo in tempi più brevi la corrispondenza delle coordinate bancarie, perché poi di fatto è quello l'elemento che ci fa capire se il nostro interlocutore è effettivamente un cliente piuttosto che invece qualcuno che cerca di perpetrare una truffa. Quindi i casi sono isolati e oramai, diciamo, non si possono più verificare, proprio perché abbiamo, come dire, migliorato il sistema di controllo a monte. Ho capito. Ho una domanda conclusiva a Navarro, ma a lei è venuto in mente adesso di stringere un abbonamento con Mediaset, o proprio non gliene frega assolutamente nulla delle partite del Napoli? Lei è un napoletano atipico, Navarro, mi consenta. Io purtroppo non ho molto tempo a disposizione da trascorrere a casa, quindi ho capito. Caro Leonardi, un cliente in meno, io ce l'ho messa tutta, però voglio dire, no, ovviamente sto scherzando, perché ci mancherebbe altro, voi fate il vostro mestiere da soli e non avete certamente bisogno di me, e non dovreste averne bisogno, perché ovviamente a me non interessa spacciare servizi altrui o vendere servizi altrui. Allora, ringrazio Leonardi, direttore contenuti di Mediaset Premium, ringrazio per Giovanni Navarro, il nostro radioascoltatore, simpatico radioascoltatore di Napoli, grazie in regia a Filippo Aureggi e in studio Elisabetta Fusconi, e Roberto Galullo vi augura una buona giornata.